qualcuno su questo canale? CQ canale 23? CQ canale 23? Ciao Marie! E chi è? Ciao Gian Marie, e chi è? Sempre io! E ciao Giù, buonasera! E mi sto sentendo lontano che sto mettendo a posto qua, là, rientro fra un po'. Va bene, d'accordo. Io ci sono, prova. Prova radio, prova, 1, 2, 3, prova. E Luca, tu vuoi troppo, uova? Ecco qua, io sono rientrato. Mi ascolti, Giulio? Sì, ti ascolto. Sì, no, avevo lo squelch perché stavo guardando la televisione, il canale 3, quei documentari che danno là su Geo. Andava, avanti il tono. Va bene così, va bene, a buia. No, si tratta qui di un telefono, un Kishi Gosu. Mi si carica già la batteria, non ho dovuto pure a caricare. Già mi sono cognati pure a caricare, quindi meglio tenerlo un poco calmo. Sì, una volta ogni tanto va anche bene, ma a tenere di giù pazzesco si guasta la batteria, perché devi stare sempre caricando pure, no? E cosa fai? Una volta che sai che la carichi troppe volte, poi non tiene più la carica e se la rivela un po'. E ti devi comprare la batteria nuova sul telefonino. Oh, io ce lo devo mandare fuori a cambiarmi la batteria, anche il mio è un telefonino che costa un bel, e la batteria facciamo male, avevo ne 80 zinco io compreso. Figurati, è la compagnia, oh, lasciamo per sì, è bello, ecco, l'applicazione è bella, la verità bisogna riconoscere che è bella perché riesce a parlare in tutto il mondo. Però la soddisfazione a parlare lontano è sempre dal baracchino, perché non vai di una possibilità, non vai niente, vai di un baracchino e l'antenna, un telefono per gastesia è buono a farvi da in Australia ad esempio. Come stamattina che stavo ascoltando verso l'una e mezzo, mezzogiorno e mezzo, c'era questo qua di Londra, poi c'era questo qua in Germania e uno dall'Australia via. Sì, perché sono la Germania da sempre, io sono un camionista, non mi ricordo come si chiama, ma è sempre lui quello che parla della Germania. È un camionista, deve essere che fa i trasporti e poi si ferma e soggiorna su quando non riparte. Boh. Beh certo, no, ma dico io questo, cioè io faccio sempre la stessa idea. Il baracchino, per conto mio, è più bello, almeno per quanto riguarda la trasmissione, e per la soddisfazione, addirittura meglio delle bande radioamatoriali, perché arrivare dall'altra parte della terra con apparecchiature che arrivano, non c'è nessuna soddisfazione, perché è l'apparecchiatura che arriva e basta, sai che arriva e boh. Ma se invece riesci a fare un collegamento a lunga distanza col baracchino, è già una soddisfazione per conto mio più grande, io la vedo così. Poi naturalmente il radiomotore, ci mancherebbe altro, ma voglio dire, per quanto riguarda la soddisfazione del collegamento a lunga distanza, per me il baracchino è quello che dovrebbe dare più soddisfazione, quando riesci a farlo naturalmente. Infatti è così, quando riesci a fare, che c'è la propagazione, riesci ad arrivare in tutti i posti con un apparecchietto, ma con un coso da radioamatore lì è facilissimo, punti l'antenna e vai. Invece con l'antenna che abbiamo noi c'è più gusto. Appunto, è quello che intendo io. voi, cioè parlate dall'altra parte della terra con apparecchiature professionali come quelli che usano i radioamatori e con le antenne che hanno, voi sapete il cinese, tutti ci sono capaci a parlare dall'altra parte della terra. Vedete lì, ad esempio, in Florida, a volte giocare di 2 euro a Rachino, in tempo di propagazione, naturalmente. Ma per dire, quella per me è una grossa soddisfazione, essere riuscito a parlare in Florida con un semplice baracchino di 5 watt e con una semplice antenna, senza lineari, senza niente, perché io un lineare non ne ho trovato. Ecco cosa intendo. Arrivo subito! Fa con calma. No, io lo stesso, con 5 watt, la stessa cosa. Io quest'estate stavo parlando con questo di dell'Australia, italiano, che se n'è andato lì a lavorare, e stavo parlando con calma con la propagazione che c'era, ed era mi fa vedere tranquilli. Certo, ma è così, in effetti è così. Anch'io, quando parlate in Florida, c'era uno che era emigrato, mi stava spiegando che lì c'è una borgata, no? Dove ci sono quasi tutti gli italiani in Florida. Per cui, se puoi immaginare, è una borgata lì, c'è fuori, non so dove, però no, sempre in Florida, a questo punto per me è una soddisfazione quella, come una soddisfazione per dire se un domani uno potesse riuscire a parlare con Cagliari, che avrebbe mai deciso la data della baracchina, mai nessuno, e mai ci riuscirà nessuno, perché la conformazione del territorio è così e non ti consente di arrivare a quella distanza, però può darsi che un domani una buonissima propagazione si possa riuscire anche a collegare Cagliari, ma sarà molto difficile, sarebbe un sogno addirittura. Infatti sarebbe un sogno, sì, arrivi anche lì. Oh, a Nuoro bisogna che arrivi tu, a Nuoro, però Cagliari non l'ho mai beccata. Solo tramite il telefono la sbirciata, andate, aspetta per sei, Luca! Ah, Luca si è attraccato. Luca purtroppo non è in condizioni con antenna ottimali e dunque secondo dove si mette non può stare, non è che puoi stare ad esempio uno va con la bicchia con poca tizia che ha aperto la tapparella e lo riusciva a sentire, con la tapparella chiusa non lo sentivo, e dice, ma che la voce era a fuori con la tapparella da casa non sia. Si dovrebbe mettere una buona antenna fuori, non so se ce l'ha su della 27. Lui già ce l'ha a casa sua, ce l'ha, ma a casa della sua ragazza no? È diverso, un antennino che ha è sempre un antennino. Certo, messo sul tetto magari renderebbe anche, andrebbe anche bene, tanto per fare quattro chiacchiere fra di lui già ci sarebbe tanto. Ma comunque è così. Come dicevano sempre, è meglio quindi 500 euro per l'antenna che 200 per lo baracchino, perché comunque il conto è sempre l'antenna. Infatti è così, se non c'hai antenna non c'hai nulla. Infatti, non si va nulla se uno ha una buonissima stazione ma poi se non ha antenna, nella maniera più assoluta. Va bene, dai. Avanti, grazie, riesci tu così a piazzare il tuo baracchino. Boh, tutto mi ha bruciato, ti vedi che ha bruciato tutto d'ore. Non la saputa che se fai di giambassi un virgo di antenna e non fa mai tempo a dire. Un tempo gli manca, capita. Sai, lo trovate che devi fare troppo, non lo so io. Vabbè, a papà pure ragione, si deve passare a nostra capituia, fa pure ragione, perché noi non lo metto aiuto. Però per dire no. ma il tempo gli ha la ciappa. Ad esempio oggi non ha fatto Eva, mi sa che fa Eva, ma hai ragione, non puoi alzare. Ma comunque gli ha la ciappa un'ora di tempo quando lo faceva a Ciambalo Pio, e capita, non è la fine del mondo. Dopo tutto quello che va, le persone rifiutate un BL e poi l'altro, non è che devi fare questo gran travaglio. E chi si dice qui di Zendio? Devi abbassare l'antenna e c'ha tutto pronto. Devi attaccare solo un cavo e basta. C'è cannone, attacca all'altro. Nastrarlo, tutto canto e via. E infatti, non devi parlare, niente di particolare, cosa devi fare? E io poi mi sembra un bel dronnaggio, perché io lascio la mano, alzo e lo giambo. Ma cosa è? 1,20 m da terra. E l'antenna mia, la base, no? E dunque, problema, io da razza, 1,20 m da terra, devo immaginare, e lì posso cambiare, posso fare quello che voglio, no, non è un problema. Però quando comincia il tempo la metto in alto, la metto in alto, dove era prima, così almeno in estate, quando ci sarà la preparazione, riuscirò a fare più collegamenti, perché dove solitamente era prima, 6 metri di un altro, devo immaginare. Per cui, vabbè, oltre al palo c'è anche tutta la pendenza del tetto, perché adesso è nella parte più bassa della casa. Prima era piazzata nella parte più alta della casa, in più tutti anche 5-6 metri di palo che c'era a cannocchiare, e ma li mettono lì. Chi è? Avanti con la schiena. Eia, chi è entrato? Non c'ero qua in cucina. Buonasera, circolare a tutti. La circolare, virai tu. Eia, c'ho anche quella a mano, quella portatile. E da un poco. Andi, bebe da consugì. Chi sa me la regendita a tagliare le braccia anche, ai enti. L'ho usata una volta, l'ho comprata, mi serviva. Fanno domandarla, mi l'ha comparata. E l'ha trattata una volta, l'ha buttata la casa, l'ha arrebbata. Hai fatto quella comparativa. Quando ti senti, sai che dirai, apri la cartola e la tratti, grazie. Comunque se la vai ti domandando a me, se poi ti dici via, se la vai applicata io, non è un problema. Ehi, ho comprato quando mi doveva accorciare la porta del bagno. Oh, perché ci ho messo il pavimento sopra e dunque un centimetro scarso l'ho dovuta accorciare. L'ho messa sul tavolo, l'ho segnata e me l'ha accorciata con quella. E ci dà perfetta. Ho messo il nastro, come faccio di solito. E ci dà un bombo, c'ha la squadretta ed è buona, taglia benissimo. E certo che taglia, è l'auguria taglia, ma ragazzi. Buonasera, buonasera, avanti con la buonasera. Ciao Giulio, ciao Graziano, Vito Veloce, che attore. Avanti giù. Qui, ciao Fra, ben entrato. Beh, con l'applicazione l'avevi fatta, ho visto. Sì, l'ho fatta, ma non mi piace. Non ti piace perché i gruppi sono troppi bastoni, però se vai nel canale, quello canalizzato già è buono, o fra, se quelli possiamo parlare tra di noi addirittura, senza a cercare il continentale. Sì, però ci vuole il microfono per entrare lì, capito? Ci vuole il microfono, qui c'è sento dentro io. Infatti, già lo so, quello sì. No, ma dal telefonino, usando la modalità, quella canalizzata, quella già va bene, no? Già potrebbe andare. Cioè, noi l'abbiamo usata, io, Graziano e anche Luca, e ho visto che funziona molto bene. Luca c'era, e Graziano c'era anche stasera, io non lo so. Certo, entrare dove ci sono tutti quei gruppi, tutti i canti che si continentali e anche stranieri, magari come stasera il Zento Bassoni, che cosa ci fai? Non serve a niente, finché sono 4-5 persone può anche andare. Magari come stasera il 120 Bassoni, 125, 3 o 4 giorni fa c'erano 125 persone sulla stessa canaletta. Ciao Franco! che lo puoi usare anche senza microfono, appoggi il dito sopra il tassino, digli e parli, non è detto che ci vuole il microfono per forza per parlare lì, ti metti sul canale 1, appoggi il dito in quella freccetta nera e parli. Sì, ma ho capito quello, già la luce non lo so, la devi apparecchiare il suo grado, anche se poi non sono entrato più perché c'è quel canale 5 dietro, il suo canale 2, per carità, quello lì forse è meglio quello del canale 8. E niente, io non stiamo dicendo l'altro, dove c'è lo Smith. Dove c'è lo Smith, sto dicendo io, lì è libera, e ci siamo sempre io, Giulio, Luca, c'era poco fa io, parlando, non ha detto che c'è bisogno del microfono, capito? Ma sei sicuro? Io, lì no, va bene, non funziona, Ivi. Io so che ci vuole il microfono, poi siccome l'ho sentito di dirlo a quello, all'amministratore. Ma che cazzo di microfono, diglielo tu Giulio, spiegaglielo tu. No, il microfono è per parlare dalla macchina ad esempio, o quando si è movimento, per non avere il telefonino in mano, fa. No, è la stessa cosa, solo che anziché usare la modalità gruppo, devi usare la modalità canalizzata, no? Quella dove c'è quello alla 48, cosa è, di, come figura, c'è lo Smith e tutto, arriviamo tutti 9.30, io, Luca, Graziano, tutti gli altri. Noi eravamo sul canale 1 l'altro giorno, oggi c'era Luca e Graziano e va benissimo, funziona che è una meraviglia, senza QRM, niente. Basta mettere lo squelci, metterlo a 30, buono a 15, vuole altri biasi, non lo mettere a 1, perché se lo metti a 1 magari non lo senti, perché quello lì arriva fino a una trentina di chilometri di distanza. Infatti se metti la mappa, a un certo momento esce il cerchio, no? Tutto il circondario di quello che può abbracciare, se ce lo segnala, capito qua? Allora, sotto lo Smith c'è quella striscetta nera che sembra un tappo, cosa va? Lì tu appoggia il dito e parli. Se poi tu quella striscetta la scorri col dito verso destra, sotto c'è anche il pulsante con l'allarme. Quello si usa se vede un incidente sulla strada. Corri il dito di lì, lo sposti e schiacci quel pulsante. Spiegaglielo bene tu, Giulio. Oh, Giulio, prova ad andarci lì a vedere, al canale 1, che l'ho messo. Sì, canale 1 però mi... SC è l'eco, quello è per provare se funziona. Metti 01, deve essere il canale 01. Proviamo, dai. Faccia anche tu, grazie, un attimino, dai. Così torniamo subito, ci sentiamo tutti di nuovo. Datemi il tempo di riaccendere, un minuto e mezzo, dai. Ok? No, io no, ce l'ho messo sottocarica, il mio, provalo, ti già aspetto qua. Già funziona, non c'è bisogno per forza del microfono, fra. Cazzo, sì, ho capito. Scusa, Tore, ti dispongo. Nuda da va, buonasera comunque, fra. Fate, già sono qua che sto aggiustando il cavo. Cazzo, perché poi ci abbiamo fatto un ping pong, Niente, no. Cosa stai aggiustando, Torre? Oh, no, mi hanno dato 10 metri di cavo, sto mettendo per averlo di prolunga. Ah, EPL ci stai mettendo? No, per farmi la prolunga, ma è compreso cosa il viso che attacca lì. Per usarla nel cavo elettrico, mi. Cavo elettrico, già è buona, già serve sempre. Franco, ti chiamo adesso, mi. Gianni Maria, ci sei? Giugatevi, senti, Giulio. Aspetta. Boh, non li posso fare né l'ana né caso, Tore, con questi bizzini. Aspetta, grazie, che sono guidato apparato, se no perdo il bucco. Taggiù due vai pigni. Buongiorno Maria, mormito sei? Bella bella! Aspetta un gufo, che facendo c'hai? Stiamo facendo c'hai? Ehi, mi ha succhiato una caramella gialla, frizzante. Adesso ne è una verde, alla menta. Luca, cosa buono hai mangiato oggi? Te l'ho detto, risotto alla parmigiana. È un, è una cosa, è una... No, cotoletta, l'altra, spinacina. Un po' di insalata e tutta. Ah, ehi, buona. Capita poco a scara la gazzoffa, la pigliate un poco, Bauletta. Cosa un bel costano. Lo so, però un attimo, grazie che ti spetti, non più spetto, dai, aspetta. E rimani in mutande, così ti si secca la pizzona. C'è una di che secca. Poco mi credo, quando vedo la cosa già glielo dico a Marina. Grazie, secca, grazie. Non penso, no Marina ti sarei accuttugliata a rubacone. Anzi a Luca lo chiedo, a Flippe. Giulio, ma l'amore sta facendo con il sorso. Li punti il sorso. Sore Luca, durai. Ah, siete che ci capi denni, state gagni. Ah, grazie a chi, te, a chi ha tempo, volete, devo qualcosa. No, e beh, la mia non è secca, aspetta che vuole il cellulare che glielo porto. Luca, corre! Secondo me tu non riesci a centrare. La ganna di Sincentria? Certo, lasciami finire che se mi devo arrendere. Ma la presa l'hai messa grande, cosa hai messo? Un capo, la spina, la femmina, la sua capo rumaccio. Tutto, già a posto quasi, mi so cosa arrendi. Ma doppia flacci l'hai busca, fa più prende la spina femmina, grande e piccolo. E se no non vengucci, la vedi tocca trattare un riduttore. Luca, vestita ti sei. Ma basta, tutto venendo. Che brava, adesso pigiala, beh, rotonda, i buoni, un cannaito e la picchi, quando ti servi per la prolunga. Cosa vuoi fare, grazie, me l'hanno regalato il capo buono. Bello, di quello anche che sta a bagno. Se ti piace così, se no te lo cambi. Che è buono, no io ne ho, adesso non so quanti metri sono, me l'avevano dato, però è grosso mi il filo, è un bel grosso, e non so così sarà, saranno una trentina di metri, è tutto arrotolato, ce l'ho in garage, che era tutto un po' bottumare, bottumare nel senso che era tucinato male, mi imburicato male, e a farlo bene, no, non vedo ancora riuscito, ma cosa è grosso e pesante, ma ce l'ho in garage, ma beh, non so cosa fa isso, mi sa che cacchè di me ne lascia i loghi e ricoglio, a chi vive un po' di peso, il ramo. Ma questi me ne ci piane 10 metri e me l'hanno regalato, e quindi a voglia. Se va benissimo, perché quello che lo devo trattare io mi va benissimo. Prolunghe così ne ho parecchie io, anche in garage. Me li facevo da spezzoni che recuperavo anche, che era buono il filo, per dire quel filo bianco, quel filo nero a quattro poli, quello lì, anche di quella a tre poli. Se era abbastanza lunghetto mi facevo sempre qualche prunga, servono sempre. E poi le adoperavo spesso anche in campagna, quando mettevo tutte le luci nel piazzale, capito? Le adoperavo anche lì. E questo insomma lo scendo in magazzino, ma lo tengo in magazzino anche gli loghi, se no dopo io vado troppo, già ce le ho le prolunghe per quassù, quindi già è così, questo lo prendo e ce lo scendo giù domani. Già sono buono, servono sempre, là. Non è che non servono, anche c'ho una di quelle lampade portatili da Gantieri, dimmo, là. Infatti tutti questi che veniva prima l'ascensorista mi domandavano una birra di diadenza, lui l'attaccava da casa per controllare l'ascensore, no? Poi ma com'è gli ha posto le lampadine dentro la tromba dell'ascensore per controllare i capi, capito, la cabina all'esterno, e adesso non me ne chiede più, ci ha messo le luci. Infatti ha fatto bene, una cosa buona appuso. Cioè c'era l'impianto ma non vedeva le lampadine, compreso. E anche l'interruttore l'ha staccato nel quadro, infatti l'ha aperto, l'ha collegato, ci ha posto le lampadine e adesso funziona bene. Quando viene a fare riparazione, a controllare, l'accende l'interruttore ed è tutta illuminata tutta la tromba, capito? Dell'ascensore. Infatti, è fatto bene. Ha fatto bene il suo, fa così. Meglio così. Gliel'ho detto io, l'ha detto, non ha mai funzionato, ha detto, no, non è mai stato in funzione la luce. Però vedo che ho visto laggiù, quando era tutto su, che ci sono tutte le plafoniere, vi mancano solo le lampadine, penso. L'interruttore sopra c'è, non accende anche non vedo lampadine. Infatti l'ha guardata e non era neanche collegata, ha messo la lampadina e l'ha collegata e funziona. Adesso tutte le volte che viene, che apre la scala e sale su a controllare il motore e tutto, se l'accende e poi si controlla tutta la tromba, capito? Faccio la prossima volta, quando vieni, falli suonare la tromba. Ehi, ma, mica un bel di voci, o si blocca, oppure se ne scende appena più giù, o manco ruggiamo, apro a cielo, metto a posto io, ma... Ehi, meglio così. Meglio così, grazie, ma che tu vieni tua? No, Giulio, beh, innamorando con Franco, sti sì. Vanno a rimuovere i biumi. Fanno andare a pigliare un telefono, che se no. Aspetta. Aspetta un attimino, grazie, che mi buco a posto di ferri. Vabbè, chiama quando entri che vado in ufficio. Grazie. Aspetta che sono in ufficio, beh, riuscito c'è. Alla grande, arrivato per più 30, ti puoi immaginare, va benissimo. Aspetta che entro subito, sta entrando subito solo, sta piegando i ferri. Va bene, piega i ferri, dai. Ok, riprendi Franco. Chiappa, basta trovo a vedere, a scaricare su un coso, sul tablet a vedere, perché cazzo che è grande il tablet, si vede molto meglio. Ma d'accordo, il tablet è tutta un'altra musica, è molto, molto meglio, ti allunghino. No, ma anche dovrebbe andare bene, penso anche nel computer, non te lo so dire, ma su poco di sì. Sai perché? Perché c'è gente che scrive anche, può scrivere, dunque ti mandano i saluti tramite, quando tu apri poi la pagina per vedere dove ci sono tutte le persone. Però sinceramente parlando, nel discorso gruppo a me non mi piace così tanto, la verità. Sì, se poi vuoi ascoltare, hai intenso ad ascoltare, va anche bene. Però magari bisogna 50 persone, accusendi, e magari parlando ne parlano 2-3. Da voi che si contentate sono un po' di giavidone, buono, dato Bari. Ci sono molti camionisti anche lì, il baracchino purtroppo l'hanno abbandonato un po' tutti, anche poc'anzi stamattina stavo ascoltando e stavano dicendo, no, dice il baracchino non parla più nessuno qua, adesso parliamo tutti qua, andate. Quasi direi, perché tra due è entrato che era un CB che era, no? In data vecchia data. E ha detto che si è provato questa applicazione e guarda che non avrà più macchina, usa l'ISU, usa, però ha detto che si va, lascia che tu vuole, e mi ha detto, e ha detto no a me, a Rizzo, ha detto che se voleva l'informazione, come si poteva fare che l'antenna non prendeva bene, dice, per ascoltare i radiamaturi, così, un V e un, no? E fino a davanti alle televisioni. No, perché quell'antenino piccolino non vanno bene, metti una della 2001, e di due cantina, quella 2001 però è un bel pesante, sono entrato e l'hai detto, cazzo mi si è dovuto il bolle, ha detto, la 2001 non va bene per la 2001, ci vuole un antenino piccolino, quello della 2001, ci vuole, tutta la vaga, ma che io sono un grande CB, vabbè hai ragione, ciao. Sì, ma già lo so, sono convinti no, di tagliente di chi sa che oh vieni, fa calendare. Tu pensa che mi va tutti loro, io stamattina ho acceso alle 6 del mattino, alle 6, mi ho messo la cuffia, mi ho messo perché c'ero vicino sul comodino, mi sono messo le cuffie, mi sono messo e c'era già della gente, me la pure una femmina, ma quando mai una femmina si ripete alle 6 di mangiare, ma andare a fa vedere con questi camionisti in giro così, oh, boh, non lo so più. Capo, se avessi saputo avrei mandato un messaggio, io sono alle 6 ero all'alghero stamattina. Senti, no, ecco come la tua, ma comunque ognuno fa quello che le piace. La calotta lo stesso, stavo ascoltando, erano già le 2 e c'era ancora molta gente chiacchierando, io ascolto sempre con le cuffie naturalmente, anzi pure la televisione, la notte la ascolto anche la mattina presto, molto presto, io la mattina alle 7 accendo la televisione e ascolto con le cuffie, e ascolto tutti i telegiornali, anche quello sardo, eccetera. Perciò non è un problema, ma per dire no, ma per curiosità ho voluto accendere questo Midland, questa applicazione Midland, ed era le 6, anzi per la testa erano le 6 meno 5, per dire no, e c'era gente, c'era parlando, me la vita bella la burla, vedendo, buon, ci ho fatto, sarà che non stiamo la vita greca, che se ne è pesata. Ho altro mi dà la luce, ma poi mi dà l'applicazione. E beh, fra! Scusate un attimo, aspetta giù che mi stanno chiamando. Eia, e beh, Giulio, riuscito c'è. A voglia, beh, va benissimo, lei già le piace a Franco. Come me, la stessa cosa, nei gruppi non mi piace, però parlare lì singolarmente così nei canali già va bene, grazie, va benissimo. Lì possiamo parlarci tutti con il ritardo, tranquillamente. Ma fammi dare i gruppi, anche se ci vogliamo mettere a parlare tra di noi, poi si intromettono lì, e se poi si intromettono e succede un casino. Eia, comunque il microfono costa in un sito che ho cercato io 33 euro e spiccioli, altro non mi ricordo di preciso, invece qua in Italia costa 130 129 126, e invece Eva di Cubiato un sito da dove arrivano quelli costa 33 euro, solo che devi aspettare un mesetto e mezzo a arrivarti. Ragazzi, na futti. Un attimo che vado un attimo in bagno, ritorno subito, deprende fra. Eia. Guarda, grazie, stamattina quell'amministratore ha detto di non prendere roba taroccata che poi alla fine non funziona, che sono il Midland originale, occhio. Ti mandano e Midia fare il Midia originale, da voi non è originale. Guarda che quei Midland che vende quello che ha fatto la dimostrazione, quel microfono, li acquistano lì Midia, da quel sito che ci sto dicendo io, hai compreso? Se tu vici lo copri qua in Italia e tu guardi c'è scritto Made in China. Ma io stamattina ho sentito quello lì e ha dato un casino di spiegazioni, ha dato e ha diffidato proprio questi di stare attenti dove compri le cose, di stare attenti, di non prendere roba taroccata, perché a volte tipo la Cina, sì, lo faranno in Cina, però ci sarà qualche buio, non lo so com'è, però è meglio se uno se lo può comprare è meglio pagarlo, perché il massimo che lo puoi pagare è 130 euro, il minimo di 100 non te lo dà nessuno. Guarda che quelli che vendono loro, ti sto dicendo, loro si forniscono dalla ditta cinese, dove li fabbricano proprio. È la fabbrica cinese che li fa le consegne a loro, loro fanno le ordinazioni e le pagano i due cicchi. Poi no, chiedi, li vendi lì, il triplo le vendono, anzi di più del triplo. A chi costa 33 euro e spiccioli. Ed è uguale, identico, spiccicato. E poi li prendono la Midland, li ordina da loro, li ordina, capito? È tutta una buttidura, ma faccio di Dina e di Nokia, hai compreso? Figurati tu quanto ci guadagnano loro qua, vendendolo loro qua, hai capito? E poi non è detto, perché io i bei fenghi che ho preso, li ho presi dalla Cina. Certe carabine che mi ha acquistato, li ho presi dalla Cina, dalla Spagna, e sono migliori di quelle che ci sono qua in Italia, che qui in Italia costano il triplo. Ecco. Vabbè, non lo so. Io non ho intenzione di acquistarlo, non me ne frega niente. Perché a me quell'applicazione non mi dice nulla. Quella è buona invece perché non usi il cellulare e ti usi qualsiasi baracchino, non è detto che devi usare il baracchino della Midland Alan 48, puoi usare qualsiasi baracchino perché l'applicazione è tutta all'interno di quel microfono, capito? Sì, perché tu si installi solo il coso nel microfono tramite il telefono e non ti rovina la batteria del telefonino e puoi adoperare benissimo un baracchino qualsiasi con quel microfono, capito? Che ha varie funzioni come ha varie funzioni la radio. Allora, quel microfono funziona tramite Bluetooth, funziona. Tu accendi il Bluetooth del telefono e non c'è bisogno del baracchino, lo puoi togliere anche il cavo che va al baracchino, lo puoi togliere anche. E funziona tramite Bluetooth, quello lì. Ed è micidiale, perché l'ho sentito io, che ce l'aveva uno che un camionista e gli ha tolto il cavo, gli ha tolto e lo usa solo col cellulare tramite Bluetooth, ma è, si intende così bene, Bluetooth in macchina, però è il nuovo microfono, e dunque l'ascolto sì, ma mi sembra di cervo, però il nuovo microfono non ci posso parlare, per parlarci dovrei chiacchiare sempre il microfono del telefonino, riprese, filmini di quel cellulare, di quel microfono lì e già è così. Comunque sono affidabili abbastanza questi ditte cinesi, perché loro li comprano da queste ditte cinesi, hai capito? Grazie. Dimmi. Cosa hai segnato nel telefono per guardarlo? La marca di quel microfono in un coso cinese che c'è su, aspetta, mi sembra si chiama Wishis, è blu, è l'insegna di questo coso Wishis. Mi piace che lui deve capire, è a Baidu. Ci sono un sacco di cose, c'è abbigliamento, botti, orologi, di tutto, anelli, bracciali, catene e cose che non vedo. Ce ne sono di lata, ce ne sono da 18 carati, i gioielli, di tutto c'è. Ed è quel sito, e poi io lì ci avevo già comprato due radio e altre cose ci ho comprato. Ma non è che hai utilizzato Amazon? Sì, tramite Amazon, perché poi c'hai una garanzia pagando con la carta PayPal, capito? Ho capito, grazie. Sì, Amazon c'è tutto il mondo, sì. Tutto il mondo, in tutto il mondo c'è. Vabbè, capito Franco, io ce l'ho il Bluetooth, però ascolto quando lo accendo, ce l'ho acceso con la radio lì e sento dal Bluetooth. Però per parlare devo schiacciare sempre il microfono del telefonino, perché non ho il suo microfono. Se avessi avuto il suo microfono mi farebbe da interfaccia, mi farebbe, perché va interfacciato, se tu apri la radio, con la radio lì, c'è scritto anche che devi attivare il microfono dual, c'è scritto. Per cui è così, fra. Ascolta, ma non trasmette se non hai il microfono. Sì, no, io sto dicendo, col microfono, comprando il microfono, non c'è bisogno del baracchino, basta solo il microfono. Se tu metti il Bluetooth, lo colleghi col Bluetooth al telefonino e funziona perfettamente, perché lo stavano usando stamattina. Sì, quello sì, così sì. Certo, se hai il microfono sì, perché riceve e trasmette anche quello. È un coso, no? Un'interfaccia, no? Va interfacciato col telefonino, tu lo fai altro che nel telefonino. Tu per parlare con la radio, cioè col telefonino in macchina, hai dovuto attivare o wifi, no? Cioè Bluetooth, e così devi attivare il microfono dual, cioè il microfono esterno di questa radio, lo dovrai attivare, c'è scritto anche in quella radio. Quando tu schiacci che ti viene fuori quel coso lì, come si chiama? Una specie di rubrica che c'è, dai, c'è scritto anche che bisogna attivare il microfono per farlo funzionare, però devi avere. Sì, devi avere il microfono, infatti se tu lo schiacci quell'applicazione, quella cosa, se la schiacci non funziona perché ci vuole il microfono. Certo, infatti poi io l'ho anche scaricato, perché ho letto tutta la spiegazione, io l'ho visto su YouTube, no? Ho visto tutta l'applicazione come va usato, sia il baracchinetto, cioè questo apparecchio qua, e il microfono come va installato. Ma ne ho salvato 3 o 4 di questi siti così, perché addirittura anche in lingua straniera ne ho salvato, però c'è quello in italiano, Paolo Cirille, Bebardo, una cosa del genere, che quando ti spiega per filo e per segno come funziona, tutto e per tutto, alla grande, sia per il baracchino che anche per il microfono. Sì, infatti. Io quando tu mi hai dato fatto scrivere tutta quella roba lì, non sono riuscito a farlo con quello lì, perché non mi dava, nel telefonino non mi dava applicazione, non mi dava, con tutto il telefonino. Poi Graziano mi ha mandato tutto il coso, che c'era anche il video. Ho tirato avanti il video, ho ascoltato bene il video e ho scritto solo CB, tac, e basta. Come ho scritto così nel telefonino me l'ha dato velocemente. Sì, adesso basta scrivere Midland, CB, tac, app, e ti appare subito. Ah, sapere che ha scritto CB talk, addirittura ti appare scritto nel telefonino CB talk app, schiacci su quello e puoi cominciare a scaricarlo. Sì. Ehi, ce l'ho qua a me di fronte il microfono, 119 costa. E in quel sito cinese costa 33 e spiccioli, però deve agitare da un mese e mezzo, va. Chi lo vende, Tore? Chi lo vende? Da Midland? Ehi, c'ha una borchia azzurra, una borchia celeste. C'ha una cosa attaccata al capo, digitale Bluetooth. e il microfono è girare, si illumina, soltanto quando si illumina, quando lo stai utilizzando, io ho visto nel video, ci sono i vari tasti, se, ad esempio se schiacci la parte bassa del tasto, ha una funzionalità, se schiacci la parte alta, sempre dello stesso tasto, ha una nuova funzionalità, se schiacci sopra, c'è un'altra funzionalità ancora, aprire, cioè accendere e spegnere ad esempio, capito? E poi il microfono si illumina anche, l'ho visto, io ho il video, su YouTube l'avevo visto, l'ho scaricato, l'ho salvato, anzi, l'ho salvato, guarda là. Basta andare su coso, mi sono ammazzato e ce l'ho già di fronte io, e lo trovi subito. Sì, ma per qua acquistarlo, uno volendo acquistarlo, lo acquista in Cina, capito tu? Invece di acquistarlo qua in Italia, che costa 126-130 euro, gli dà costa 33 euro. Catta, bisogna che si insegna le viaggità, e non che in 3D e non che in Sassari. Vabbè, però quanto lo fa? Che cazzo non ho capito. Fai conto che non hai, ma un mese e mese da voi hai speso solo 33 euro, non è che hai speso 100 e passa euro, non ho capito. Sì, c'ho la scatola che mi dice che c'è quell'applicazione, c'è. Sì, a te. Grazie. Io sono su Amazon, se la mia di Ivi è 129 euro, e non ve ne è altro, due baratti. Io ce l'ho registrato, io ce l'ho qua di fronte, 119 euro, spedizione gratis. Per avere la garanzia per la PayPal lo devi ordinare da quel sito cinese che ce l'ho sul telefono io. Mandamelo quel sito su WhatsApp grazie, dopo mandamelo su quel sito sul telefono, su WhatsApp mandamelo. Adesso non parlo, è sotto carica, chi è davvero? Già te lo mando. Tanto dopo, no, adesso, avanti un po' bisogna lavare anch'io. Dopo, quando è possibile, no, me lo mandi, e così voglio vederlo. Ma non è detto che non funzioni, sì, e beh, è chiaro che l'amministratore ha tutto l'interesse di difendere il suo prodotto, o meglio un prodotto italiano, per così dire italiano. Poi però, anch'io sono nel parere che quello che ha detto Graziano possa corrispondere alla verità, perché in genere queste apparecchiature, compreso baracchini e radio eccetera, in Italia non le fabbricano, è tutta roba da fuori, o dalla Corea o dal Giappone o dalla Cina, tutta roba esterna, e poi naturalmente qui la vendono in Italia, se le vuole usare con un bevano. E in quel sito tutti le email che mandi scrivi il nome di questo microfono qua e subito ti appare nella lista di tutta la roba che vuoi. E vedi che tu gusti, avere un brecio e manno burro, 33 euro e spiccioli. Sì, ma è così, grazie, già lo so. È un po' come certe apparecchiature, no? Un pareggio della Cina costano la metà, perché? Perché sono loro che producono tutte queste apparecchiature così. Infatti si sono vedi anche nei baracchini, c'è scritto madre in Japan, madre in Cina, madre in Corea e così via. Tutta roba dall'estero, da quei posti lì. Buonasera a tutti. Ciao Gianni, buon sentito. Eia, la roba è della bigliani dai Givi, mica la frabbeggiani no, che non hai compreso. E no, quella bella la base ne ha preso d'oro. Grazie, fa entrare chi si grande, anzi ora hanno domandato lo break, io di per la città. Fate entrare. Abbasi il brecco. Brecco? Vabbè, forse da me, perché prima l'ho fatto io il break. Stavo aspettando a farmi entrare, comunque buonasera a tutti. Avanti l'altro break. Buonasera a tutti qua, a Tullio, dai, buonasera. Ciao Lupo. Gianni, come ti arrivo a casa tua? Guarda un po', 1, 2, 3. Prova, 1, 2, 3. 9, 3. Un pezzo di russi, vabbè, dai, avanti Tullio. Cosa hai fatto? Un pezzo di russi. Lui è curato, lui. Cosa ho messo qualche base. Sì, più o meno, va. No, già va bene, in vicinanza va bene. Mm-hmm. E allora cos'è questa cosa del microfono? Vi stavo ascoltando, però non ho capito bene di che cosa si tratta. Chi è che me lo vuole spiegare? Perché non ho, no, se ho fatto ascolto, però ho sentito parlare di un microfono che si illumina, ma scusa, un microfono per apparecchi radio. Te lo spiego io già. Allora, la Midra ha fatto un'applicazione che col telefonino si può parlare con tutto il mondo senza nessun problema, guarda. E dopo casomai ti mando un video, o ti mando su WhatsApp, oppure te lo mando a Graziano lo stesso, non cambia niente. E stavamo parlando, siccome è col telefonino, no? Col telefonino questa applicazione, e parliamo dappertutto, parliamo, e ci sono i gruppi di che trasmettono, però possono esserci anche 100 persone in questo gruppo, e quello, sinceramente parlando, a me personalmente non mi piace molto, però sempre nella stessa applicazione c'è un'altra applicazione diversa, di una modalità diversa, no? Che parte dal canale 1 fino al canale 40, come se fossimo al baracchino, e quello va bene fino a distanza di 30 km, mentre l'altro ha distanze illimitate, anche in America dove puoi parlare, non vedo problemi. Non so, tu non ce l'hai questa applicazione evidentemente nello smartphone o già? No, adesso non ce l'ho, ma Stefano me l'aveva dato una cosa che parlavo con... però non sai cosa c'è, a me mi manca l'apparecchio vero e proprio, cioè è bello sì, però a me piace parlare al baracchino, col baracchino davanti, sarò l'antica giù, però mi piace così, mi piace vedere tutta la mia attrezzatura davanti, capito? Illuminata, fatta quando parlo. Adesso guarda, oggi sono entrato perché sono a riposo, oggi è lunedì, sono a riposo perché ho fatto due domeniche, adesso sono entrato stasera, se no io la sera sto lavorando dalle 2 sino alle 10. Sì Gianni, sì, ma questo sì, è senz'altro, anch'io sono lo stesso parere, il baracchino per me è tutta un'altra musica, non ci sono dubbi, però voglio dire, se proprio uno vuole parlare ad esempio anche come Australia, tanto per fare un esempio, puoi parlare senza bisogno di tante preoccupazioni, capito? Perché ti parli tranquillamente, senza QRM, niente, sia al telefono praticamente, e si sente anche molto bene, è chiaro, perfetto, forte, soprattutto forte. Però stavo dicendo che noi di Sassari, o perlomeno di zone limitrofe a Sassari, possiamo parlare nella modalità canalizzata, che parte dal canale 1 fino al canale 40, mentre invece la modalità per parlare nei gruppi mondiali, quelli lì arrivano solo a 15 canali. Però l'altro giorno già c'era verso l'ora del pranzo, non mi ricordo a che ora, ma comunque verso le 2 diciamo, dai, c'erano 125 persone nello stesso canale. Dimmi tu come fai a stare in un canale dove ci sono 125 persone e quando parli mai, ammesso che tutti quanti non parlano, ci sono quelli che ascoltano, ci sono quelli che parlano, per dire no, però non ha senso, non mi piace così, e finché sono 4-5 persone potrei anche accettarlo, ma con tutte queste persone non mi piace assolutamente. Oggi mi prendi e fai girare tu, vai. Ti ripeto, io ce l'ho avuto quello lì, ce l'aveva Stefano quel programma lì, ma l'aveva passato, e poi non so come è andata, ho cambiato telefono e cose, quindi è andato, non ce l'ho più adesso. Sì, ho capito, però io lo vedo un po' freddo, come capito, lo vedo fredda la cosa, mi piace di più l'apparato, era più di familiare, non lo so cosa sia. Va bene, dai, rilascia tutto a Tore e poi fa girare. Avanti Tore. È un'applicazione che che devi installare, ecco, e puoi parlarci, ma se non ti interessa non è tanto di cose, è meglio, meglio usare l'apparato che lo telefono con la batteria appunto. Spero, signor Giulio. Ah sì, sono d'accordo anch'io, sono il baracchino, è il baracchino, è tutta un'altra musica, un altro fascino per conto mio, eccetera. Ripeto, si potrebbe utilizzare la versione canalizzata per noi che siamo qui di Sassari e zone limitrofe, va anche bene, però il discorso è come stai dicendo tu, la batteria, ecco la batteria, io ce l'ho, ho fatto un'applicazione sul tablet anche, ce l'ho sia nel telefonino che sul tablet, con due numeri diversi, no? Perché ho due telefoni, per cui va bene, quando ho il tablet già mi dura moltissimo, almeno quattro volte tanto quello del telefonino, per cui posso anche parlarci volendo, però ripeto, non mi piace nel gruppo, troppo casino, c'è sicuramente la modalità canalizzata, quella mi piace di più, ecco cosa intendevo dire, va bene, avanti, grazie. Ehi, è perché stavo parlando io per il microfono, perché così non sfrutti il telefonino, metti solo il Bluetooth e usi quel microfono, il telefonino no, non tieni la mano alla batteria, è quello che ti volevo dire, Emilio. No, il telefonino casomai non ti mangia la batteria perché non trasmetti, però te la mangia lo stesso perché lo devi tenere acceso per poterci parlare, se no non è che non c'è solo il telefono puoi validarlo, ci vuole sempre il telefono acceso e interfacciato col microfono, ecco com'è, grazie. Sì, ma non è mai come adoperare il telefonino perché adoperi il microfono, capito? Sì, quello sì, è vero, accendi il telefonino, però tieni presente che il consumo della batteria con quella radio lì è di gran lunga superiore a quando stai telefonando, non ti dici sia, io me ne sono reso conto che anche tenendoli solamente in ascolto, senza schiacciare la portante, per trasmettere ne esuscia un bel ne esuscia di batteria, comunque va bene lo stesso, è comunque un'ottima applicazione, a me piace la verità, quella della versione canalizzata, non quella di gruppo, quella di gruppo un po' meno, magari mi fermo lo stesso, ascolto, posso anche parlarci per dire, no? Però non più di tanto la verità, avanti Franco. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. Sai cos'è che te lo succhi il telefonino, la batteria? È cosa della mappa, perché devi tenere acceso, anche la mappa devi tenere accesa. E quella lì succhia senza toccare lo telefonino, tu accendi quello, quell'applicazione e sei fregato. Per cui si svuota direttamente. È come quando accendi il Bluetooth. È uguale, tende a consumare di più la batteria. Avanti Gianni. Ciao Fra, infatti è così, te l'ho detto, il Bluetooth già non consuma, io il Bluetooth lo uso in macchina perché c'ho in macchina il Bluetooth e quando rispondo al telefono rispondo direttamente con Bluetooth invece che prendere il telefono in mano. Quando lo usi consuma la batteria, infatti prima mi durava tutto il giorno, adesso quando ritorno a casa devo metterlo in carica perché è già quasi scarico, se devo usarlo per andare su Facebook o roba del genere non lo posso usare perché è scarico. Il Bluetooth consuma un bel lo stesso, non è che lo consuma, come consuma la connessione dati eccetera eccetera. Addirittura questo mese, cavolo, non riuscivo a connettermi col telefono, boh, che strano. Ho telefonato la Vodafone e mi ha detto, ha finito i giga, se vuole un giga, 5 euro. E te me lo metto, ve lo devo fare senza internet e sto. Io ho consigliato a Franco, mi ascolti. Sì, Gianni non risponde, forse altri hanno telefonato. Ha preso il giga, adesso aspetta che glielo metto. Sto scherzando. No, volevo chiedere, però se il telefonino lo scarichi da tutta la bondezza che ti mandano, pubblicità, tutti i cosi, i messaggi che ti mandano anche su WhatsApp eccetera, soprattutto bisogna scaricarlo anche il telefonino, se no è chiaro che i giga se ne vanno a farti benedire. Gianni, riprendi se ci sei. Sì, ci sono. No, stavo chiamando a Franco, non a me, io ho capito così. Sì, io lo faccio sia quello lì, sia la pulizia del telefono, la pulizia del virus, eccetera, eccetera. Faccio tutto io, l'aggiornamento glielo faccio ogni tanto, ogni settimana glielo faccio. Quello è importante farlo, perché per la salute del telefonino, gli auguro, capita, se no te lo bocca, se consumi il giga, te lo... io ne ho 7, non ne ho molti, ne ho 7 di giga, perché io come gestione ho posti mobili. Prima avevo Vodafone, avevo Windy, e devo dire la verità, me ne fregavano i soldi senza utilizzarlo il telefonino. Allora mi sono fatto quel sistema poste mobili, pago ogni 3 mesi, pago 10 euro al mese, mi viene 30 euro di colpo, così, ogni 3 mesi. E mi hanno dato 7 giga e più 1000 telefonate, 1000 messaggi e così via. Va bene, che poi non consumerò mai, è cosa di messaggiare, tutti quanti mille messaggi gli devo, mille telefonati, ui, avanti Tore. Sì, è così, vabbè, tieni un microfono, vabbè, tieni. Grazie, 33 euro, oh, se c'è panicciullo con 33 euro, ma cosa ha mai dato? Gianni, lo devi in quel sito cinese, lo devi scrivere e poi ti appare dal sito cinese quel microfono. Così i ragazzi costa così un bel, in quel sito cinese invece costa 33 euro, ce l'ho visto io ieri. Ieri andate a andare nel sito cinese, me lo sa dire sul sito cinese? Aspetta che ti leggo come si chiama, perché ce l'ho sotto carica e poi te lo devi applicare. Vabbè, oggi dimmi fra. Perché quanti giga c'hai tu? Io 3 giga c'ho. 3 giga? E che operatore sei? Vodafone. Io mi ho fatto quella... mi ho fatto, no? Ho 50 giga, minuti e sms illimitati. Dove? Alla Windy l'ho fatto. Però devi essere... Windy devi essere... per passare lì, perché è collegato alla Vodafone. No, a me Winnie non mi piace, a me ho Vodafone TV, non esco da lì. Wish, c'è scritto Wish, W, I, E, C, C. Oh, Gianni, è Vodafone, è collegata alla Vodafone questa che ho io, Franco, mi ascolti? Scusa, già, vediamo un po' se mi ascolta Franco. Franco, mi ascolti? Sì che ti ascolto. Dai, facciamo un po' di bianco qua, bravo. Sono giorno che ti chiamo per vedere se mi ascoltare. Va bene, dai. Allora, ne approfitto che sto uscendo, allora, vado a mangiare una pizza. Alla prossima, buona serata, buon proseguimento, a domani se Dio vuole. Ciao, ti prendi tu già, ciao. Ciao Luca, sei bassino, sì, però ti ascolto, sì, però sei basso, sei segnale 1, ma segnale 0, e radio 1, sì, però riesco a tirarti fuori perché non c'ho QRM. Ciao Luca, buon appetito. Ciao Luca, non ti rimaniamo una 3 o 4 di bici, vabbè, vai Giulio. Ok, come te che ti chiamano sul sito Wishy, così hai detto? C'è W verso giù il disegno, W verso giù, poi beh, aspettatelo che mi aspetta che guardi. Si chiama Wishy, cosa W, Wishy. Carabai troppo lunga, grazie. Oui, sì, lì, entra in quel sito, digiti il nome del microfono e poi lo vedi che ti appare. Grazie, fa la foto e mandala. Stavo caricando adesso il telefono, non fa. Senta, se non si comprende, dove ti è? Dopo la prima rovescia, cosa vuol dire? Oui. Wishy, hanno già scrivi Wishy. Ma se te ne vai, non salgo a capo a Wishy, ma non può prendersi. Se te ne vai, non salgo a capo a Wishy. Ho un telefonino, poi la cabaterra. Wishy, Ma te, Luca! C'era tutto in gruglulenti! Ha ragione, sei gata, ripeto che non lo sa di... Wishy! È una volta che ci ha installato questo disegno che va giro il telefono. In quel sito ci sono abbigliamento, gioielleria, botti, di tutto. Però tu se gli scrivi l'email del nome di quel del microfono, ti appare il microfono. Ma allora lo shopping c'è scritto anche, grazie. Lo shopping divertente. Shopping pure, sei shopping, è un negozio di shopping. Allora vai te, mo dai, allora vai te se devi scappare. C'è di tutto, c'è tutto, mi botti, cosa vuoi che ti dica, di tutto. C'è anche il compasso, mi pare si chiama, elettronico, misuri, no? Ci sono i numeri e c'è elettronico, te la dà perfetta al millesimo lo spessore che misuri. Un sacco di cose c'è, solo che comprando lì devi aspettare un mese e mezzo, c'è anche scritto. Non lo paghi con PayPal, fai vita in abbigliatura, fra un mese e mezzo ti arrivi, poi sicuro arrivi prima, perché io ho controllato anche di altre gente che ha comprato lì, che c'è scritto, molti hanno scritto che è buono, bello, giusto, perfetto, insomma tutti i cosi, molti hanno scritto che gli è arrivato anche prima di quel periodo, del tempo, di un mese e mezzo, capito? Vabbè, vediamo, cosa vuoi dire? Whisky, ma lo sarà whisky! Cognac, grazie, whisky! Cognac! Whisky! Cazzo, ma sono io il villaggio che sto cosa, a me mi arrivi una bolbandata ai scrivilli, e io ma curiosità li scrivo, ma da cos'è? Secondo cos'è me lo tengo, secondo cos'è nel cartello. Oggi per dire mi è arrivato un altro sito di abbigliamento militare, ci ti interessa roba militare, e me l'ho scaricato, stavo facendo una barbatina così e c'è di tutto, divise, cappelli, mondanti, camici, tutta roba militare, ce n'è nuova e usata, anfibi, militari proprio, nuovi e usati, buoni però, messi a posto, non vici. Insomma, un sacco di roba c'è, in questo mi è arrivato oggi. Femmina, finito. Anche le bambole gonfiabili, infatti il futuro saranno bambole e maschi, bamboli e femmine bambole, per il futuro, per un indomani, anzi a Torino c'è già una casa di tolleranza con le bambole, chi sarebbe interessato può scrivere l'email e ti mandano il bambolo. Gianni! A me mi interessano le vere bambole, non quelle gonfiate. No, ma ci sono, l'hai visto? Anche il telegiornale l'ha fatto vedere un paio di mesi fa, a Torino. Comunque dagli sempre zetto di sanno vivo. No, quando viene mia nipote, già te lo faccio mandare io, ho il sito Franco, e poi mi dai la risposta. Oggi non c'è, adesso non so se viene lunedì, e te lo faccio fare da letto, lo mando a Giulia Franco, e poi lo vedi che tu guccia? L'unico microfono che costa sui 30 euro, 31 euro è l'originale, l'umidral originale. No, no, questo io sto dicendo, quel telefono, quel microfono per fare quell'applicazione costa 33 euro e spiccioli. Ah vabbè, adesso non fa guardare, da. Sì, vabbè. Giulio! Solo che hai già messo questo culo gogna che io non ho whisky o grazia. Vabbè dai, beh, se l'hai visto il logico, io già ci credo, ci mancherebbe. Lo cercheremo con calma, ma a noi mi interessa, sia ben chiaro, non mi interessa più di tanto, comunque già lo cerco, dai. Allora, Tony, sì? Sì che ci sono, ma se capite dentro a prendere quel gozzo che mi ha detenuto, non mi dai nulla, c'è tutta altra cosa diversa, libri e tutto quanto mi dai. Ma gliel'hai scritto il nome, il nome gliel'hai scritto, di cosa ti interessa? Tutto la cebolla, tutto è fuori di Gesù esci. No, è impossibile, per forza di sei vicino. Boh. Io chiesto che andiamo per andiamo. C'è mia nipote che se ce l'ha ancora lì sul telefonino me lo faccio mandare su WhatsApp e poi lo manda a Giulia e a Franco. Dottore, ehi, dimmi. Io diciamo che era tutto per me, per addotto, invece no, tu io. Guarda, è apparso subito, perché la ricerca me l'ha fatta mia nipote. Ehi, ma qua non lo va, dai, neanche con quel sito che hai tutto lo va. Ma me lo dà, sì, però mi dà sempre 119. No, 33 euro c'era, cioè, ma ci ha mandato subito, ma mi guarda quanto costa, da quel sito dove ha preso lì, perché lì ci ha preso altra roba, lì. Vabbè, ciao, va, vediamo, se non so se prendermelo, cosa ne fai? Dai, a perdere. È bello, va, puoi usarlo con il baracchino, boh. Oh, Giulio, ma udo dai? No, ho già avuto il ticcomiglia, ma non vedi su. Ticcomiglia non ho già avuto di questi discorsi, ma non vedi su. Ma c'è lui scrive qui tu, grazie, non c'è scritto altro, qualche altro nome ci sarà, no? Qualche altra sigla? No, solo whisky. Stanno embriago. Gianni, riprendi. Lei ha scritto la marca di quel microfono e a quel sito lì e poi è apparso il microfono. Ma se a quel sito gli dai whisky, sei ubriaco. Vabbè, dopo ci provo, se la rintraccio già me lo faccio mandare da lì. Capito, via, Gianni, è ben lavorando, sta. Già, te credo. E il piede a posto si è messo. Il piede si è chiuso, poi si è tirato la faccia e si è aperto di nuovo. Tira Giudito, da Giulio te lo devi far fare, il legno, divino Giulio, di Merante, di Robazzi. Giulio, dove è tutto l'umerante? Abbastanza duro. E lo devi vuoi fare? Lo vedi? Vedi? Che servizio, perché ancora quel problema hai, Gianni? Si è aperto appena quando sono tornato a lavorare, ma non è tanto come prima, dai. È una cosa irrisoria. Come ha sofferto un giorno che stavo lavando in pescheria con la pompa, ho preso acqua del vessere, si è fatto tutto bianco attorno e mi si è aperto appena, ma già sta guarendo adesso. E perché non ti metti lì stivali quando usi la pompa, l'acqua così, in pescheria, boh? Perché io devo stare sempre con le scarpe ortopediche, capito? Non posso togliermi le scarpe ortopediche. Ma a pescheria non puoi stare in botte ortopediche, no? E lì è sempre bagnato nelle pescherie. Io ne vengo uffici a giorni, buru nell'altro supermercato, ma ne, gli si vale. Ma io non faccio solo il pesce in vento, dovevo sistemare anche la merce e tutto quanto, capito? Non posso stare con gli stivali piano vento, tu non le sai le cose, ma io sì. Allora ti devi un paio di volte che non faccia arriva, come ti si deve, isolate, e se no così chi se non ti sarà mai non qui. Si vede, non va bene in umido. In umido al russo. Corre bene, filato vai! Ah, fine mia mira, che non esce nulla, a me c'è del nome, a me c'è tutto, però non esce nulla. Meri, dosi, e trapani a colonna, altro voi. Riprendete che io guardo se la ritraccio e c'è, me lo faccio mandare e te lo mando. Giulio. Va bene, prova, dai, mandaci il coso, mandaci il messaggio su WhatsApp e vediamo un po'. Come te che c'è il microfono di te risendi. Se non mi fermo un legno, mi fermo. Non è possibile. No, non ci sono riuscito a trovarlo. Ho trovato di tutto, ma proprio col microfono lì niente da fare. Vai, tra. Sì, io l'ho trovato a 119,79 su Amazon. Tu l'hai trovato più caro del mio allora. Io ho 119, tu. Vabbè, io ho trovato quello 79 centesimi in più. Hai andato a 33. Sempre caro, eh! Infatti, sono cari quelli. Come non lo trovi più basso? Sì, l'unica cosa che riesco a trovare è me, cosa de, come ti si chiama, cricco per la macchina, o una brescia, poi una saldatrice, un banco di per tagliare la regna, cosa vuoi tagliare, un forno elettrico. Guarda, gli ho mandato un messaggio, adesso vediamo se mi risponde. Anelli per con diamante, 2 milioni e qualcosa. Mi sarà scritto 2 euro, cosa 2 milioni? Oh, vera cifra, c'è col diamante bianco e col diamante rosso, sirubui. Poi ci sono quelli che costano di meno. Ce ne sono a 1 euro, a 2 euro, a 5 euro, già li ho visti. No, sei bagliando, chi dice che già ho 2 euro, non vedete niente. Allora non sono quelli, cioè non sono quelli, ci sono quelli che costano meno e quelli che costano poco. Viso cadeni, bracciali, di tutto, beh. C'è quel sito lì. Dottore, Graziano, non ho contato gli zeri. Infatti, non ho contato gli zeri, no. Vabbè, dai, gli zeri c'ho qua, dimmi, vedi. Aspetta, grazie. Beh, guarda che li ho già acquistati, mi, con un WhatsApp. E villaggino di uno, mi, bello massiccio, 18 carati. Vabbè, dai, c'ho tanto gusto, mi, 4.750 euro. E tu devi dirgli 4 euro. Ma prendessi a dirgli l'anno inverso. Allora vai male. Io ho acquistato, mi ce l'ho qua. Paolo è a villaggio. Bello grosso. Inteso. Oh, grazie, non è che era un problema. Ti cambio lo cinesi. Se rimani 4 euro, visto, se non arrivi. Va bene, gli zeri proseguono da voi. Senta, chi su quella perla vesi a banato gusta 5.500 euro. Chi su mi deve arrivare? Chi su ruia e duelli, chi su che va già è tutto giallo. La sapete grazia, la sapete che è meglio, va meglio rigurori. Bianco, rosso e verde. Bene, dimmi un giù. Sì, è l'asciutta, ma da dottore. E io mi ha lasciato da Graziano, era asciutto. Acqua, appunto, ma visto, qui te l'hai giù preparato, mi va a dire. Ciao, Graziano, mi. Oh, yeah. Adesso non mi arrivi di su vecchi, è che tu ruio. Grazie, io domani il gioco di diretto e me lo usare giù questo microfono, visto che me lo usare giù da Dandi Comparato, vai anda. Io domani il gioco di diretto e tu me lo usare giù, vai anda. Aspetta, calma, che il mio ragioniere è in ferie, è voluto andare in ferie il fine settimana. A va a vedere il rientro, se rientra lunedì, ti gli faccio fare l'ordine. E che è questo ragioniere Giulio, fammi sapere. È una bella signorina, Vabbè, allora andate. Vabbè, dai. Allora avvisami quando sei pronto, quando sei a comodo. No, comodo, a comodo. Vabbè, dai. Fra, io ne vediamo due, tre, quattro, chi è che si unisce? Compriamo tutti i microfoni da 32 euro, come diceva il Graziano. 33 spiccioli. Ma da voi passerà un uguale se non bigliaccio della cera, si porta 60. 33, come l'anno di Gesù Cristo, 33, a posto siamo. Vabbè, ma se l'ha visto, se stava dicendo che l'ha visto, vuol dire che c'è, no? Non c'era meravigliante, perché in effetti i cinesi, questi prezzi che lo sappiamo che li fanno, noi guardiamo no, che sono tutti ladri, i commercianti di Italia sono tutti ladri, tutti indistintamente. Beh, certo, l'avrà visto sicuramente, sicuramente c'è, non è che siamo tutti paurati, però no, no, noi non la accetteremo, magari l'usito, se dove sarà entrato sarà un acquisito da un Lucini e lì l'ha visto. E ci ha detto pure se non ha sbagliato il microfono. No, niente sbaglio, perché ha digitato quel microfono che gli ho fatto vedere io, quello che ho mandato a te e che ho mandato a Giulio. L'ha digitato e mi è apparso con il prezzo quel microfono. E sta uguale, identico, spiccicato, ha tutte quelle funzioni come quello, perché quelli li comprano lì. Adesso gli ho mandato un messaggio, se lo legge me lo manderà. Sì. Va bene. Beh ragazzi, io vi saluto che devo uscire. Ce la riascoltiamo tutte le prossimine. Ciao Gianni, ciao Giulio, Graziano, Ettore. Ci ascoltiamo tutte le prossime. Bene, già. Gianni non riprende, dai, riprendo io. Ok, ciao Fra, ci sentiamo alle prossime, ci sentiamo. Ti prendi Giulio. Ok, ciao Fra, alle prossime, dai. A domani, se coincide. Grazie per la chiacchierata, alle prossime. Poi magari facciamo di nuovo la prova dall'altra parte, dove siamo andati stasera, così per curiosità. Gli andate e voi rientriamo qua, perché questo non lo dobbiamo mai abbandonare. Il baracchino è un'altra cosa, un'altra musica è. Avanti, grazie per salutare Franco. Ciao Franco, buonasera, buon tutto. Comunque se me lo manda, già se lo mando, la foto. E anche a Giulio, e questi numeri che tu gusta. Adesso io gli ho mandato il messaggio, come mi dà, se me lo manda, te lo mando, non ti preoccupare. E questa è una miseria, confronta ai nuovi, ma buffolenni sì, 126, 129, e invece la cosa 33 euro e spiccioli ce l'ha scritto. Ok, dai, va bene, grazie. Quando ce l'hai, se la cosa non me lo mandi. Ciao a tutti, buonanotte, buona cena quando la farete. Ok, ciao Fra, ciao, alle prossime. E quello che ti ho mandato io su WhatsApp, quella signorina che stava passeggiando, già l'hai ricevuta Fra? Sì. E quello col paracadute ho ricevuto là. Ma oggi l'hai mandato? No, ieri mi sembra, ieri, o quasi ieri. No, sai che non me lo ricordo, se guardate. Probabilmente dopo li guardo, perché me ne sono arrivati tanti e non li ho neanche guardati ancora, anche oggi. Ah, ok, ho capito. Va bene, dai. Alla pure il signor Fra, ci sentiamo, ciao, ti lascio andare, vai, avanti, grazie. Ehi, ciao, ciao Franco, ok, vai Tore. Andiamo, grazie, stasera. Ehi, allora, aspetta, vado a vedere che ho sentito un bidibì, avesse quel messaggio. E allora, Giulio? Tu, mi ha mandato l'altro giorno, un messaggio su WhatsApp, no? Una signorina, tranquilla, non so cosa te l'ha mandata, tranquillamente, un cammini, così, bistuda, solo che c'era un problema, ma via, giusto, l'usare il cubetto. Andiamo, bobo. Graziano. Ma Giulio, cosa è gana di farmi... di non farmi mangiare, caro? No, mangia, non ti preoccupare. Buon appetito anche. E poi mi ha mandato l'altro, Dore. Due si sono incusti dalla rocca, con un baracalute. Uno si è messo un baracalute. E l'altro si è messo e si è frappegato alla luce, in terra. Incredibile. Tutti i cristiani mi mandano queste cose. Ma mi manda un bel simpatico, la verità. Chi si me l'ha mandato Luca, me l'ha mandato a me. Chi so di rubare accadute? Ma vai da che la stai in capo con la Udo, chi si può fare un attimo? Questo sarà molto sicuramente. O se è tutto frattolato, senz'altro. Ma che non vai altro che sta luce? Ci vediamo che verrà Romari, però Romari non l'ha pigliato, ha pigliato la rocca, ha pigliato. Ehi, avanti, grazie. Appena viene me lo fa vedere perché in un altro sito così me lo copio e poi ve lo mando a voi. O a vedere se perché non è sicura quel sito lì, se è tranquillo, se è un sito affidabile, capito? E deve controllare bene prima. Allora fammelo già bene, grazie, quando sei pronto. Sì, appena quando viene, adesso non so se viene lunedì, è partita rimanere sera, così è Paolo. È partita ieri sera perché abita fuori in paese. E non so se viene lunedì, boh. Appena viene non ti preoccupare, a te romando quel sito e lo vedi. O quello o un altro, deve controllare se sono affidabili, mi. Capito a Giulio? Sì, ho capito, grazie. Vabbè, dai, non mi pressa. Quando è possibile, te lo mandi. Ti fai la cortesia, te lo mandi quando è possibile. Se non è possibile, pazienza, non è un problema. Vabbè. E cosa vuoi fare? No, stavo leggendo adesso il televideo. Banca Italia, suona l'allarme spread. Alto. Oh. Che è Pittina? Sempre devono in peggio in Banca Italia, se non è nega. Boh, non è possibile. Sei uno schifo, non hai visto oggi? Chi gioca poi su bocca un figliolo? Chi dà la padulacci dove faccia la bizzina? Una donna ogni tre giorni ammazzali, mi sa che ne sa ammazzando una la di o due buru. È una cosa incredibile, ragazzi, sta come si è acciambato il mondo, prima di questi costi non si indiene così, parla così frequente, ma va dugnali ve ne so, dugnali, non è possibile, oi. E vabbè, pazienza, cosa vuoi ti dire? Pensate che non succede mai niente nuovo. Se manda il nivello, cosa più se ne fa? Senti burro che la vuoi intendere il paesano, eppure era una persona come si deve, erano così gentili, gente buona, cazzo gente buona chi dà molto, la moglie, i figlioli, cazzo gente buona, E mi sono atteso un paio di anni fa nel giornale, c'era una femmina che era morta a Olbia, roba di 6 mesi in casa sua, il figlio si deve rimanere in casa sua, morta, non è possibile, grazie, ma io quindi da tutti i canti di colore di Alice mi intendo io. Che ci pigliava la pensione di la mamma, insomma, l'hanno lanciato giù, ci ritirava la pensione. E beh, ci dice che era morta di bloccava le avvenzioni, no? Vabbè, io sono d'accordo, ma Fiaccareggio mi sta a casa, mi sta a casa. Se chi sta a prendere la mostra da 6 mesi, ma cosa ha fatto? Non può essere il frigorifero. Non lo so pure io, non è possibile. Noi non primo no che chi sta a posto la moglie oppure la moglie sta a posto la moglie, lo marito in un boxetto. Ehi, noi non primo, è l'ultimo no. Beh, dottore. E allora, tutto per ritirarci la pensione, che se no dopo fra la metà della pensione non avrà pazzia, se no. Un paio di mesi fa ho inteso che tu di poi da 20 anni ritirare la pensione della moglie, mi pare, o la moglie ritirare la pensione di Roma. Non mi ammetto che la ira, c'è la femmina uomo, 20 anni. Sì, grazie. Purtroppo, corri di oggi, se sono così si può fare. Che l'altro dia è fatto per la televisione, ho chitato, 20 anni cieco, e lei l'albero di Raffigati India, ma niente di Raffigati India, è un buccente sida, è puro sciuparenne sida, non l'hai visto il telegiornale, l'hai fatto qui di cazzo di aria, e lei era 20 anni cieco di sighiera. Di tutto se ne intende, di tutto se intende. Roba la macchina, per carità, a posto siamo, non è possibile. Ma dimmi due, ma lo spread che è sempre attendi, dunque indebita sempre di più l'Italia. Ma cosa? Ma che non vuole che sia Giulia di Boba, che l'ha compreso, non vuole che si battate sia dell'Europa che della sinistra d'Italia. Non vuole che si bocci a Giulia, che Salvini e Di Maio a Giulia di Boba. Non è possibile, è proprio incredibile. Che pensa che questo resto di cittadinanza per tutto canto d'Europa. Solo in Italia manca, ma che lo può fare? Solo in Italia tutti i canti vengono contro Salvini e contro Di Maio, non è possibile, grazie. Sottimena che il prossimo anno direte nel cu di fuori, chi se no fa dentro all'italiano entrani. Hai compreso che tocca all'italiano entra all'Europa a comandare. Sottimendi chi su sottimendi? Chi ti va a stare? Ma te ne immagini che questa grazia di gente di graziata, ma la decisione che venga. Aiutare avanti a andare, aiutare i poveretti, no, hai intendi? Bastardi che non sono avanti. Così ha fatto quando era Renzi, che era al 2,4, al 2,5 era il deficit. E andava bene a chi era Renzi. Oppure quando era Monti, che era al 2,8. Allora che dici lo so fermo, al 2,4 non andava bene. Ma te ne immagini quanto sono bastardi, capito, questi disgraziati. E questi vogliono spendere i soldi per aiutare la povera gente. Mi sono 7 milioni di gente morendo di fame in Italia. Dagli un minimo di contributo, almeno se non altro si comprano il pane. E se tu gli dai di denaro, che si impegni in burro, si chiede di denaro, entra in circolazione. E lì c'è un problema, non lo resti a comprendere, ma la decisione venga a tutta la politica mondiale. Ragazzi, io vi saluto, ce la sentiamo domani, dai, vi devo fare pure l'insulina. Ciao Tore, ciao Giulio, ciao Gianni, ciao a chi è in ascolto, alla prossima, ciao Tore, riprendi tu. Saluta adesso allora. Ciao Tore, ciao Giulio, ma devi venire a casa i Salvini, mi, a casa di me ci ha detto che devi lampare un po' di niente, devi fuggì, anche di vedere un macello. Infatti, con tutta casa la malavita che vede, sarebbe non è possibile. Alemani l'hanno arrestato, 21 l'hanno arrestato, tutti i nigeriani, tutti quanti pieni di droga, era di tutti, ma cari dai, cazzo. Una cosa impressionante è diventata. La Sardegna, cazzo, che è un giardino, era solo infangente che sa niente, che c'è bastante che mi sono aiutato la pura. Ma qui fate chi si disgraziate della sinistra, raga, non è possibile, no, non è possibile assolutamente, non si può accettare una cosa del genere, purtroppo è così rusi. Salvini, avvia avanti, Giulio, come che fai in continente, mi hai compreso? Ciao, grazie, ci sentiamo. Così è, Ruti, purtroppo è così. Non permettere di alzarsi appena appena dalla situazione, nulla, non vuole di agire a nulla, anzi sempre più povero lo so fanno diventare. Non è possibile che razza di politica disgraziata che abbiamo. Vabbè, dai, avanti Tore. Sì, ok. Ciao, grazie, ci sentiamo. Alle prossime, ciao Giulio, ma ora mi mettere il nome. Anda bene, dai, là. Ciao. Ciao, grazie, alle prossime. Purtroppo è così, sto. Il nome è così, la moglie di Graziano, no? Avanti, sto. Ehi, Ruggi, non me la mettavo più il nome. Talmente attaccato ai kiwi. Va benissimo, dai, vabbè, neuia. Purtroppo siamo in mano ai delinquenti. È una vergogna, ragazzi, è una vergogna. Ah, ma sì, non saranno estinti di santi anche loro, perché la politica io non ho mai avuto fiducia nella politica, però questi almeno se non altro volevo fare delle cose per aiutare la povera gente, anche se l'Italia si deve indebitare, ma si sta indebitando per gli italiani, invece non vuole capita che venga in tutti i gli extracomunitari, no, dobbiamo impedire di diranno noi a mantenere i tagliati. E per gli italiani, non è possibile, va. Non c'è rimedio, assolutamente. Meno male che il flusso di questi neri è finito, non qualche prima, ma vabbè, allora ogni tanto arrivi una banchetta e magari lì, con la carina sono molti di India, se due sono molti, sono tutti dispersi, gli si dispersi cosa ne sono finiti, sono molti, buonissimi, prima o poi la vanno a ciappare male, se non si smaglia anche balena. Vero o no? Infatti, ma cosa così. Ma Salvini per buone bocco mi ha mandato lì anche su paesi. E però ha detto, se continuiamo così siamo fuori, l'ha detto. Ma che cosa glielo sta dicendo? Continuate così e noi andiamo via. E barrangiate. Ma che noi siamo qui, diciamo, siamo pagati un po' di più di tutti gli altri. Cata, però la cosa, la Germania, che è in deficit più di noi, era brata, non matteci, e ci sono lamentati con noi, che non andava bene. Hanno proprio poi visto mattato un presidente francese, capito? A te ne immagini, gli sono disgraziati, lo primo eletto che non fu di essere comunitari è la voce che si chiede all'Italia ma che non lo senta. Brutto disgraziato Macron che si cocca sempre con la nonna, si cocca, gli sono disgraziato, si sta coiubando con la femmina che può essere la nonna, non la mamma, non la nonna, può essere. La faccia spudorata capita di questi gradi d'Italia, a te ne immagini? Giù è una massa di delinquenti io. Ma gli avrà detto che si continua, ma così convenisci fuori dall'Europa e si arrangiano, anche dice che vanno raggiunto, ma che raggiunto vanno, ci sono massacrenti, ci sono massacrenti, il problema è questo. Lo fate visto, se noi usciamo fuori, ad esempio l'Inghilterra se ne uscita fuori, allora no, pur si ancora base basse, però è già deciso se ne è uscita fuori. Se ne usciamo fuori, speriamo che non ne abbia nei risparmi della gente, ma che è di minimo di minimi. Se alza lo spread, cosa succede? Che lo Stato non fa di altro che prendere di tutti gli altri risparmiatori, ma fermare i banchi. Come funziona la studia, perché la gente che va di là in banca a un certo momento non si appassiona niente, come c'è successo in Grecia. Adesso che fare anche da maniera che se può carico che faccio non lo so più di rendi, vedrà che non me ne tocca né manco da me, a chi di Goravacca di Go, non me ne a me, arrangia da ragiura. Vabbè, visto sì, ma secondo quanto vai, è chiaro che ti le bordini in casa, ma se fai una stessa cifra, non è che ti le bordini in casa, cosa ti fai? Tu mi verrai, ti vuole una da cacciafotti, e poi due carabini dalla Traiana. Sempre un rischio, sempre un rischio, non si svolge mai. Prima, tuo caso mio, voi, e noi muori, sempre stai dentro la cacciaforte, ma vai, non è possibile, in banca è stata di me, ma no, certamente, sì, in casa vuoi avere caso cosa vuoi mantenere, 5-10 mila euro li vuoi tenere in casa, al limite, ma se vuoi come sta avendo una stessa cifra, no, non è che se li vuoi tenere tutti in casa, no, Antonio, che è il problema, poi per gente che va a milioni, cosa fate? In casa se ne deve. Infatti, ma non è il fatto che alla popolazione non chiedono nulla, c'è la Banca Italia che dovrà, dice, questa non ce la fa, chiudiamola, pazienza, ci registreranno 3 o 4 banche solo, le più forti, chi c'ha più mani e basta. Allora, quanto ha fatto Renzi? Gli ha fatto 35 miliardi, l'ha dato la Bobo Renzi, tanto che tanto vera Renzi, ma che bella lo spread, cioè l'ungoso era, il deficit era al 2,5, cosa ha fatto Edo? Ha tagliato e ha calamitato tutti degli italiani che ci sta, anziché dare al povero e ha dato alle banche, troppo di 35 milioni, non miliardi, 30, no, miliardi, che milioni, miliardi, e anche tanto ha fatto come si chiama, l'ubro pistoli, che se non parla da Fornero, fissatemi, dimmi tu se si può fare una legge di mandare l'uomo di capita a 67 anni in pensione, con 42 anni e a che mese il buono dei contributi, non ne bastano, intanto da Bassolo non si va ne frisolando a Edino, si va ne frisolando agli operai e ai travagliatori. Giulio, io non sono andato con 42 anni e 7 mesi, e 64 anni di età. Vabbè, dai, giù, mi hanno chiamato, fanno pigliare la signora. Ci sentiamo, magari domani ci sentiamo. Ok, ciao Giulio. Ciao Tavo, alle prossime, dai, ci sentiamo. Buonanotte e buonasera, dai. Grazie per la chiacchierata, alle prossime, ciao. Sì, ok, ciao Giulio.